Natalink, Natalink, ci sei? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Attenzione Natalink, Natalink, mi connetti? Ehi Gianfra, già ti ho connesso. Allora sai che vado su YouTube, metto un video e non trova il mio televisore più. Boh, prima lo trovava sempre. Cosa sarà successo? Ma cosa stai parlando? Dei collegamenti telefono-televisore? No, il... come si chiama? Il computer. Io sono andato su YouTube, volevo vedermi un film, però quando gli dico trasmetti non trova il mio televisore. Spegni e riaccendi e poi controlla se è attivato, se è attivata la VLAN. Dimmi che televisore è. E-Sense. Lo trovava sempre. La LAN è attivata, è connesso. Il wifi? Controlla la impostazione del wifi. Era connesso anche sul wifi. Non è che ha fatto qualche aggiornamento e sarà magari cambiato le impostazioni. Controlla tutte le impostazioni. A entrare sul modem a vedere se c'è il televisore. No, cosa c'entra il modem? Allora, innanzitutto è uno smart TV, giusto? Sì signore, è collegato direttamente alla rete, col cavo di rete. Benissimo, quindi perché mi parli di telefono quando probabilmente YouTube ce l'ha già il televisore come applicazione? Sì, ce l'ha YouTube, il telefono sì, ce l'ha. E allora il telefono cosa c'entra? No, è il televisore che non trova. Il computer non trova il televisore, non è il telefono, è proprio un computer. Controlla che sia abilitato il Bluetooth o il Wi-Fi anche sul computer. Ecco. Se non lo vedi, sul computer fai fare una ricerca. Allora, ho trovato qualcosa? Sto cercando a vedere, però è strana questa storia che non me lo trovi. Allora, dimmi che computer è e con che sistema operativo, se Windows 10. Sì, confermo, Windows 10. Ok, allora se ce l'hai acceso vai su Start e metti impostazioni dove c'è un ingranaggio. È già andato lì, sono, dai. Ok, metti dispositivi. Ecco qua, sono in dispositivi. Guarda se il Bluetooth è attivato o disattivato. Come è attivato o disattivato? Sto guardando, ho messo Bluetooth e altri dispositivi. Sotto vedi, Bluetooth ti può dire attivato oppure disattivato. C'è quell'introduttore, sotto c'è scritto poi mouse, tastiera e penna. E sotto ancora c'è scritto audio. Ancora più in fondo ci sono altri dispositivi. E ci può essere uno schermo, un televisore o qualunque altra cosa. Tu lo vedi il nome del televisore? Punto di domanda. Negativo. E allora metti aggiungi dispositivo, Bluetooth o di altro tipo? Ecco qua, scegli il tipo di dispositivo, schermo wireless, monitor TV. Ecco. Ecco qua. Guarda se ti connette. Sempre lì devo stare. Mi interessa sapere se ti appare diciamo la connessione, se è attiva oppure se è disattivata. Ti appare il televisore? Negativo, non c'è qua il televisore. E quindi non è connesso. O peggio non l'ha trovato. L'hai spento il televisore e l'hai riacceso? Sì, poco fa sì, adesso lo rispengo e lo riaccendo. Ma attenzione. posizione per spegnere, io intendo proprio spegnerlo, perché probabilmente se tu lasci la corrente lui rimane attaccato in qualche modo, capito? Perché le schede rimangono di norma sempre alimentate, a meno che non togli la corrente, quindi le fa un reset proprio su tutto quanto, in modo che si ripristini. Ecco, adesso si è riavviato il televisore. No, l'ho spento proprio, la corrente gli ho tolto. Quello dovevi fare. Controlla adesso di nuovo se ti appare il televisore, se lo vedi. Allora che mi dici? Aspetta, sto vedendo se si connette. Se no vado sul televisore e vedo se è connesso via... Perché adesso si è riavviato, no? Ho capito che l'hai riavviato, però devi abilitare anche il wifi, perché sennò come lo connetti, ho la fantasia. Infatti sto guardando, adesso guardo se c'è il wifi abilitato. Ma cosa vuoi mandare? Immagini al televisore o che cosa? Non ho capito ancora quello che vuoi fare, è il problema. Allora, la wifi qua è abilitata nel televisore. E anche il Bluetooth? Il Bluetooth c'è qui, assistenza dal web, risoluzione dei problemi delle connessioni Bluetooth, installazione driver Bluetooth, condivisione di file tramite Bluetooth. Sì, a me mi interessa capire cosa vuoi fare tu, se mandare immagini, mandare file, mandare solo audio, cosa vuoi fare tu col televisore e col computer? Allora, da YouTube c'era un film, io schiacciavo lì e dicevo di trasmetterlo sul televisore, però non ha trovato il dispositivo e me lo trovava sempre. Va bene, allora fermo restando che quel film te lo puoi guardare tranquillamente anche sul televisore, perché di norma c'hanno l'applicazione YouTube che è anche migliore perché lavora meglio. Poi non so che sistema operativo ci abbia il televisore, se sia un Android o cosa sia. Se te lo guardavi sul televisore facevi prima, ecco, tutto lì, quindi il problema non si metteva. Ho capito. Ma il televisore ce l'ha YouTube incorporato, sì o no? Sì che ce l'ho. E allora te lo guardi lì, no? Tanto più o meno sai a che punto eri. Ti chiederà le credenziali perché vuole qualche iscrizione di norma. Poi comunque se il televisore ci ha abilitato il wifi, il bluetooth eccetera, il computer lo dovrebbe vedere, a meno che non sia successo qualche guaio sul bluetooth oppure sul wifi. C'è anche la connessione cablata, quindi via cavo o no? Sì, c'è la connessione via cavo. Il televisore è connesso, sta navigando il televisore, controlla che navighi. Ho schiacciato YouTube, guarda, sto andando su YouTube. Brecca la frequenza se ascoltate questo piccolo modulatore. Cambiamo canale, qua c'è un macello, poi sono impriato. Prova a passare sull'1, ce l'hai l'1, Natale? Sì. Passa al canale 1, dai, vediamo un po'. Onde está, amigos? Vamos a ver, adelante, amigos. Positivo. Da Salis, e così ho lo stesso discorso per il frigorifero. Il frigorifero è lo stesso, non è uno di quei frigoriferi all'americana, no? Con due sfondatori grandi, proprio una metà di frigorifero è congelatore, l'altra metà è frigo. Il congelatore non congelava più, boh, sono andato a comprare un pozzetto, 200 euro, un pozzetto piccolino, ed è una meraviglia, va benissimo. E il frigo te lo usi normale, giusto? E il frigo lo uso normale, adesso chiamerò un amico, uno frigorista come si deve, che lo sa riparare, e per cui va bene così. Solo che in questo momento lui è impegnatissimo con i lavori industriali, no? Perché è un frigorista proprio di professione da sempre. Già lo conosci a Corso, Costanzo ora zero, Costanzo ora zero, l'ex CB. Sì, boh, e adesso la metta. E ne conosco tanti frigoristi, c'è questo Mario, stasso che è molto bravo. Sì, Mario giù sicuramente si è. Perché avranno sicuramente due motori. Magari uno se ha preso il gas, oppure non sta andando il motore e si è bloccato. Infatti è così, no, sembra che si blocchi la ventola, non lo so. Perché è venuto già un amico, c'era la ventola bloccata, l'ha sbloccata, ma a quanto sembra si è bloccata di nuovo e dunque siamo sempre da capo. Pazienza, ma già faccio venire Costanzo Pazzona, già lo conosci, dai, il fratello di Antonello Norton, vecchio CB, vecchissimi CB, della Greffa di Bruno Uragano, veramente, con la Greffa Limi. Beh, questo non mi viene in mente, ma non lo conosco. E vabbè, è stato risolverlo, cavolo, un frigo così, io l'ho visto, sai dove? Se non ero l'ho visto, aspetta fammi pensare, dove cavolo ero? Forse al Conad, lì alla Ushan, e l'ho visto lì, sì, l'ho aperto, bello, con la due ante, un bel grande, costa 700, quasi 800 euro. No, questo costa 1300 euro, perché io l'ho comprato 10 anni fa, e l'avevo pagato 1200, una cosa del genere. All'americana, no? Di quei frigoriferi grandi all'americana, cosiddetto, dicono così, c'è un po' di nuovo, mi se lo vedi è immacolato, tutto nuovo, solo che adesso ha questo problema, che non congela, però noi per evitare, siccome abbiamo pagato 150 euro di carne, tra carne e pesci, buttato perché si è scongelato, e dunque è molto bene. L'indomani non è che lo potevi ricongelare, no? Tutta questa cosa bisogna. Ha fatto il pranzo e la cena del giorno, poi tutto il resto ci abbiamo buttato, no? Per esempio, 50 euro di spesa o Luca. E allora sono andato 200 euro e ho comprato un piccolo possesso e adesso quello è una meraviglia. Ti fai il ghiaccio anche a minimo, mi alzai come te. Questo bello. Tutto congelato in una maniera impressionante, pietra diventa quel ghiaccio. Beh, certo. Sì, comunque i frighi di una volta sono i migliori, adesso questi nuovi che fanno, hanno un gas scadente. Lo dico anche loro, mi hai capito. Questi di adesso fanno proprio desiderare. Ma faccio lo stesso 10 anni. E, diciamo che qualche punto di ruggine la sono presa. Del resto è perfetto, rinfresca bene, il congelatore c'ha due cassetti, purtroppo i cassetti sono rotti, mi sa che manco li vendono, e col tempo quelli si spaccano. Lo so, perché di solito la plastica si rompe così al ghiaccio, al freddo, lo so, no, questo è mio, è nuovo, non c'è un graffio, nulla, sai cosa vuol dire nulla, nuovo, anche perché qua bambini non ce ne sono, dunque è trattato bene, e cosa... Poi cos'è vai? Devi comprare un frigorifero. Il frigorifero è bello, fa bello veramente, è un peccato eliminarlo, guarda, è veramente un peccato. Ma adesso lo stiamo usando come frigo, sta funzionando bene come frigo. Anche la parte dove è il congelatore, anche quello sta funzionando solo come frigo, però non congela. E allora lo teniamo così per il momento, poi grandissimo frigorista, uno che sa veramente il suo lavoro, sia lui che il fratello Antonello, e anche il figlio di Costanzo, hanno un'officina grande lì a Predanieda. Guarda che abitavano nell'angolo, cioè di fronte al parco del Montalosello, abitavano molta la famiglia, anche il padre era frigorista di professione. Ma se lo vedi già te lo ricordi? Sì, sicuramente lo conosco. Comunque sei mancato di segnale, controllati qualcosa lì Giulio, eh. Sei sceso da 9,20 più a 5 prima. Addirittura, guarda se ci sono, forse l'ho schiacciato male, forse non l'avevo schiacciato bene. Guarda se ci sono. Sì, sì, adesso sì. No, non è fatto che secondo me ho fatto contatto. Ma il vento c'è lì, no. No, ma forse c'era una portante, perché portante, quando hai parlato tu c'era una portante, forse c'era un po' di battimento, c'era qualcuno qui vicino in zona. E comunque sei sceso a 5 prima, vabbè sei a posto. Sì, sì, sì, sono belli quei frighi, poi sono quelli che hanno il rubinetto all'esterno, tu schiacci e ti metti l'acqua direttamente. Trovo, sì. Quelli costicchiano, infatti lo voleva mamma uno così, però sono alla fine barrazzoni, cioè ci vuole posto, là, diciamo, quello va bene una casa grande grande, oppure qualcuno che ha adesso anche una, come si dice, una casa a piani, no? Se lo metti su a piano di sotto e lì già ci sta bene, sì, con una bella, un bel soggiorno grande a Vuglia. A Vuglia? No, io ho una cucina grande, la cabernetta 50 metri quadri a Vuglia, stazione di spazio. Vabbè, ormai è tutta arredata, tutte le palette sono arredate, però voglio dire, già ne ho posto, quello non è un problema. Sì, infatti quello si può mettere il tubo al rubinetto dell'acqua, no? E allo stesso tempo poi prendi l'acqua fresca senza nemmeno aprire lo sportello, perché lo prendi direttamente da fuori, c'è una specie di rubinetto, no? Però noi no, siccome noi non ne beviamo acqua di rubinetto, e allora non ho mai utilizzato quel sistema lì, non ho mai collegato al rubinetto, mai, mettiamo l'acqua alle bottiglie, l'acqua minerale direttamente dentro e basta, niente di più, capito? Invece di dire cucina l'altro soggiorno prima, il primo soggiorno non l'ho mai visto. Ehi, sì, sì, rubinetto, ma la depura oppure no? No, c'è un tubo, no? Dietro c'è un tubo lungo, come il tubo della lavatrice più o meno, no? Come il tubo dell'acqua della lavatrice. L'attacchi direttamente al rubinetto e lo lasci, sempre attaccato, lo lasci. E così fa tutto da solo, fa, no? Quando tu apri e prendi l'acqua, man mano che si scarica si riempie di nuovo, no? Capito? Per cui noi non l'abbiamo mai usato, perché da quel rubinetto noi non la beviamo, nemmeno cucinare la usiamo, sempre acqua minerale e basta. L'acqua del rubinetto la usiamo solo per lavare i piatti, e allo stesso tempo poi mia moglie, giustamente maniaca, un bene, allora fa, prima lava con l'acqua del rubinetto e poi li sciacqua con l'acqua minerale, ti puoi immaginare che la sei secco. Beh certo. Questo, ma che agio, lasciamo cogliere solo, aspetta 2 secondi giù, mi avvicino un attimo in bagno a vedere un po' la lavatrice, arrivo subito, ok. Tu sei Luca, tu sei? Ciao Giulio. Ciao, come mai sei così basso? Non lo so, qualche cosa che non va, sto controllando. Ho capito. Controlla. Quanto ti arrivo? Santiago 9. No, ma intendevo la radio, mi era bassa la radio. Adesso? La radio non è pulita, non è pulita la radio, quello deve controllare. Che strano. Andava benissimo. La radio non è pulita. Prova di nuovo. Ora, mi sa che è un po' alto. Un po' alto, così, ecco. adesso com'è? Adesso è chiarissimo, adesso va benissimo. Sì, infatti, ero... C'era il mic event un po' troppo alto, deve essere che l'ho toccato per sbaglio. Ok. Va bene, può succedere. Ah, hai capito chi sono, sì. No, non ho capito, no. Claudio Nevada, da Porrottone. Ah, ciao Claudio, sì, va bene, un sacco di tempo senza sentirti, e avevo dimenticato la tua modulazione. Sì, ma infatti sto lavoricchiando e ho poco tempo e l'ho acceso così 2 minuti a vedere se funzionava ancora. Già funziona, vuol dire se funziona, dato che adesso va benissimo. Anche la base, ma anche Santiago è 9, no, anche è appena abbondante anche, oltre il 9, per cui adesso va bene, prima era la radio che non era messa bene, regolata bene, ma va benissimo. E stavo parlando con Luca, con Carlo, non Luca della Feroce, non Luca del Monte, si è allontanato perché stava facendo la lavatrice, poi è incasinato un po' con la schiuma. Ti stavo ascoltando, ti stavo... Ora. 1,5 di stazionario, un po' troppo, infatti. Oggi un messaggio, boh, troppo detersivo, va ancora un po' di sciuma. Poi se mette da un garage non riesce nella sciuma. Mamma mia, Luca, cosa hai combinato? Guarda, una volta si sentiva male mia moglie e mi sono messo a lavare i piatti, io non te ne dico il disastro che ho fatto, proprio non sapevo come risolvere il problema, che sono stata roba di 3 ore o 4 ore, sempre, perché cosa succedeva? Io avevo fatto così, lavavo i piatti, però ogni piatto mettevo un po' di detersivo, no? Cazzo, ma alla fine è incominciato a uscire tutta la schiuma, si andava l'acqua e la schiuma dal tombino, cioè dal lavandino, no? Anziché scendere la schiuma saliva. Ma infatti ti giuro che sono stato roba di 3 o 4 ore cercando di eliminare la schiuma, non finiva mai, poi questo mi ha consumato un pacco di detersivo per fare 4 piatti e io cosa ne sapevo se faceva così. Infatti mia moglie a un certo momento ha fatto, dice, ma cosa stai combinando? Sì, tutta la sera che sento sempre lo stesso rumore, e gli ho detto, no, oh, non si faceva così, dice. E cosa ne sapevo io? Ma Claudio da Porto Torres, Luca, ma se te lo manda avanti. Avanti Claudio. Ok. Mi approfitto anche a salutarvi perché riparto al lavoro. Non lo sento a Luca, salutamelo tu Giulio, no? Perché io non lo copio proprio. A risentirci, alla prossima. Ciao Giulio, ciao. Ciao Claudio. Senz'altro lo farò, saluti da Claudio, Luca non ti sente. Sì, adesso hai anche aumentato di segnale un po', adesso sei proprio 9,5 pieno Claudio. Ci sentiamo le prossime, dai. Ciao, grazie per il questione. Luca, scusa un attimo che mi stanno telefonando. Io lo sento a Claudio, dai. Ciao Claudio, se mi ascolti, dai, alla prossima. Andiamo, cazzo! Luca, ancora ci sei? Sì, sono qua giù. Scusa Luca, ma non ho trattenuto al telefono. Una telefonata importante. Non ti preoccupare, ci mancherebbe. Già ero qua, tanto si stavano un po' la roba. Ok. Senti, questa è la preparazione, deve andare vuoto, un bel po'. Va bene, dai. Va bene così. È propagazione, già si sente. Cazzo, sta anche 9,10, vero? Ma c'è questo B, però ha fatto anche 9,10 questo qui. Ah, qua è basso, 1, 2. Adesso 5. Abbassami le voci, straniero, ascolto l'Italia. Io gugugnavo. Gugugnavo, vabbè. Come quando andava alla torre. Gugugnavo. Allora. Andiamo, Giulio, andiamo. Vabbè. No, era mio fratello che mi stava dicendo che mio nipote che deve partire adesso a Tokyo per le Olimpiadi, no? Fatto l'allevamento qui. E gli hanno dato 20.000 euro di premio, gli hanno dato solo per essere qualificato, per essere stato qualificato ai giochi olimpici, alle Olimpiadi. Sì, cavolo. Un bel gruzzoletto. Infatti più altri 6.000 ne hanno dato due mesi fa, perché è arrivato terzo ai campionati europei, infatti medaglia di bronzo ai campionati europei, sempre il sollevamento peso, per cui gli ha da Edo a Massimo Zizzi, sta girando il mondo così. L'altro giorno, due mesi fa, era in Russia, ma deve andare in Giappone, adesso deve partire. Ma giovane? Sì, giovane. Ancora non ha compiuto 20 anni. Oltre a quello ha anche lo stipendio, no? Perché lui è stipendiato dall'esercito italiano. Lui ormai è arruolato lì, proprio per il fatto che è sollevatore di pesi, no? E allora l'esercito l'ha assunto ed è stipendiato. Oltre ai premi che sta guadagnando, è anche stipendiato. Altre 15.000 se ne ha fatto l'anno scorso, sempre agli europei, che ti puoi immaginare, insomma, si sta facendo un bel gruzzoletto, nemmeno 20 anni ancora, Luca. Da lì si inizia, no? Si inizia quando sei grande, per ogni cosa devi iniziare sempre da giovane, non quando sei grande. Beh, certo che sì, ma dico, anche perché è qualche anno che sta facendo il sollevamento pesi, non è da molto, per cui ti puoi immaginare. Nella categoria 61 kg e solleva l'ultima alzata che ha fatto agli europei due mesi fa, ha fatto 158 kg di slancio, ha superato, e 120 di strappo. Cavolo! Già so cose belle, dai. Beh, per quanto riguarda il virus, fa partire uguale, è vaccinato, sì? Beh, certo che sì, no, non ci vai, sono Olimpiadi, lo vaccinano loro, no? Proprio è tutto preparato, non è che va lui, va con la squadra, no? Con la squadra dell'Italia, capito? Con tutta la cosa, l'organizzazione dell'Italia, noi andiamo sia contro suo, no? Che ci mancherebbe, sia lo grido, e per cui tenuto come si deve, trattato con i guanti, mantenuto alla grande, beh, è normale, no? Come tutti i campioni. In realtà lui è un campione, se vogliamo, perché se no alle Olimpiadi non ci vai se non sei campione, se non hai una certa misura, no, se non lo fai una certa misura non ci puoi andare, non sei qualificato. Lui comunque in palestra lui è riuscito a sollevare anche 165 kg, sempre di slancio. Però quando fa le gare, l'allenatore non lo sfrutta al massimo, perché se c'è uno che magari è che solleva meno di lui, oppure se c'è uno che solleva molto di lui e sa che lui a quel peso non ci può arrivare, allora dice no, basta, fermati così, perché è troppo giovane, capito Luca? Beh certo, che sta 160 kg, sono un po' tanti, vabbè, già va bene, così si inizia, se uno si vuole vedere la vita bella bella, inizia da giovane, capito, per ogni cosa diventare sempre da ragazzino, per qualsiasi cosa. Guarda, infatti la madre lo mette sempre su Facebook, sempre, anche sempre sui giornali, Nuova Sardegna, guarda, scrivi se lo vuoi vedere, Davide Ruglio, regista, sai tutta la sua storia, Davide Ruglio, sollevatore di pesi, pensa che lui solleva quasi tre volte il suo peso col polio, lui pesa 61 kg, pesa, e riesce a sollevare quasi 160, quasi 158 l'ultima stata che ha fatto. Sì, sto guardando, sollevamento pesi, Davide Ruglio, bronzo europeo 2021, 4 aprile 2021. È mio nipote, capito? Per cui, vabbè, andare alla grande, no? Non c'è problema. Sì. sono andato, ho preso, dammi del ruglio, bronzo, l'ho preso, slancio, categoria 61 kg. Lui pesa 61 kg, allora sai, no, se supera la categoria deve passare, cioè se supera i 61 kg deve passare in categoria, ma non le conviene, anche se lui è un po' penalizzato perché è soggetto ad ingrassare, no? Ad esempio gli europei, prima di fare la gara pesava 64 kg e dunque ha dovuto limitarsi anche nel mangiare per poter rientrare nella categoria, ed è sceso a 61, se no avrebbe dovuto partecipare anche a quella categoria, mi pare che sia preso piuma quello lì, una cosa del genere, e sarebbe dovuto salire a un peso più superiore, no? Mentre siccome a lui conviene gareggiare lì, allora si deve mantenere con quel peso. Però si sa, quando uno è soggetto ad ingrassare e poi tu hai fare dei sacrifici per dimagrire, ti indebolisce anche, se vogliamo, no? Allora, siamo andati presi prova di tecnica per Davide Ruglio, agli europei categoria fino a 100 kg, l'azzurro classe 2001 si mette al collo con la medaglia di bronzo, nello slancio sulle svando 158 kg alla terza prova. Lì c'è molto allenamento, lui è ormai con lì il suo mestiere, no? Lui è lì all'esercito per fare quel lavoro lì, lui ormai è, non è che fa servizio militare, no? Lui è stipendiato ed è un atleta, basta, è stipendiato, pagato per fare lo sport, niente di più, per cui ti puoi immaginare. Oltretutto si è procurato un lavoro, cioè gli hanno dato un lavoro, perché lui ormai è fisso, è arruolato lì, capito? Sì, adesso sto guardando. Allora, di strappo, uno slancio e due di totale, che chiude con 176 kg. 276? No, 176 kg. No. 158 più 120 di strappo, fallo conto, sono 200, c'è un errore. Usci perché? Aspetta un attimo, giù. Perché fa 120 di strappo più 158, lì hanno fatto un errore, sarebbero 278, 76 o quant'è, boh. Andiamo! Allora? Certo! Aspetta, mi ha mandato, aspetta che spengo, accidenti, ecco, perché mi ha mandato una fotografia, ha inventato un tipo di chitarra mio fratello, e l'ha data a uno, l'ha data e mi ha mandato un messaggio, la stavo ascoltando. Non è la solita chitarra normale, dice, avevo inventato una cosa così, perché lui li fa proprio di quelle buone, no? Chitarre buone, da 3.000 euro l'una. Se le costruisce così vuol dire che le fa buone. Lo credo, sono di materiale, ci mette quasi 1.000 euro solo di materiale. Il materiale che si fa del Valle Apposito da fuori, no? Non è di Vracano, è un materiale come se... lo fa per professionisti, non lo vale, ma... andaggio, ma questo è un altro tipo, diversa casa, eccetera, no? E la ragazza, questa ragazza stava ascoltando la musica, stava cantando come la canzone Pozzo di Ibiza, quella canzone lì, io subito là, no, mai da cosa come ti canto io. Ah, Pozzo di Ibiza, da te, chissà. Quella lì stava cantando, lei stava suonando la chitarra e cantando quella canzone, questa ragazza. E vabbè, ma gli faccio un'impiattata, però sono un matese, nonostante che la forma non è proprio la chitarra come si deve, per fare chitarra come si deve, veramente. Andare, dito buro e dito base, guarda, fasi, e cosa, infatti faccio delle mostre anche. E quasi, e più costruisce chitarre, e allo stesso tempo scrive canzoni, boom. Lo fa di bene. Fa di bene, mi ha dato quelli già fa. E infatti, e poi le canzoni le dà, un po' a tutti. Andare, vabbè, la maggior parte di quelle che ha scritto le canta mio fratello, vabbè, poi altre della mia nipote e altre della altre persone. Andare, e cosa vuoi fare? Solo io sono questo lato, la bobo, chissà parola, tutti cantano bene, la famiglia mia, io sono questo lato. Non è possibile nunca, non li posso la bizzarra. Ma chi è quello che canta che fa le chitarre? No, quello lì li canta e basta. Sì, qualche canzone la scrive anche lui. No, quello no, il più piccolo di tutti. Nello si chiama, il più piccolo. Quello è Tore, quello che canta è Tore. Ah, è Tore, io mi ricordo, sì. E appunto, sì che... Andare... Tutti cantano. E per che cosa no? Maria Pia Puti che no, non è mio nipote, ma si sa che canta. Ah, sono nipote. Allora, non è mio nipote. A chi non lo sapete. No, lo sapevo giù. Infatti. Vabbè. Te lo sto dicendo, famiglia mia canta di tutti. Solo che io sono questo lato. Tutti cantano bene e sono lui che sto suonando come te la grava. Vabbè, c'è mia figlia che è il primo soprano addirittura, devo immaginare. Mia figlia Rossetto canta in un grandissimo coro dove ci sono 45 elementi, vuoi immaginare? Cavolo. Sì, io la chitarra lo stesso la vorrei comprare ma costano troppo. Lo so, io ce l'ho una chitarra. Avevo pagato 350.000 lire, nuova nuova, mai trattata, io non mi so quello, per cui era praticamente un contentino che aveva dato a mia figlia, tanti anni fa, aveva fatto gli anni, dice voglio la chitarra come regalo, che è la chitarra, cosa te ne fai la chitarra? No, no, mi piace averla, ma tu impari, no, mi piace averla e basta. L'avevo pagata 350.000 lire e allora c'era la lira, no? Capisci? E la ragazzina era, e per quello che l'ho accontentata. Ma era amplificata? No, è normale, è una chitarra normale. No, oh, quella che vorrei prendere io è amplificata. Infatti il mio fratello le fa amplificate anche, oltre a fare le chitarre normali, quelle tipo, anche tipo quelle alla strada, diciamo, chitarre alla strada, poi fa anche quelle amplificate. E ne ha fatto un poco battuti, ne ha fatto anche per il Tazenda, ne ha fatto e anche altri musicisti che sono fuori, credo anche per coso, quello come si chiama, quello è il musicista sardo, bravo, anziano, ma la banda manamento, come si chiama, che canta in sardo anche. Quando è il più bravo, là, il considerato il più bravo di tutti, diciamo, là. A parte Andrea Paludi, non mi ricordo, vabbè, non lo so, come è il vecchio? Non ce l'ho presente, giù. Ah, Piero Marras. Ah, sì, ora mi ricordo. E anche a lui, per cui, all'altro, quello che è morto, quello di Calangiano, quello galonese che è morto, quando è morto, sarà un anno e mezzo fa, anche quello aveva fatto delle cose, una chitarra anche per quello. Sono belle quelle chitarre, mi piacciono un sacco a me. No, quelle che vendono nei negozi, se è così, fatte così bene, belle, fatte a mano, con materiale buono. Sto dicendo, il legno apposito, ci vuole il legno apposito, poi fatto a mano, tutto fatto a mano. Ma tu devi vedere queste chitarre. Già mi faccio mandare le fotografie, ce le avevo, le avevo cancellate. Mi faccio mandare le fotografie di qualche chitarra che ce l'avrà ancora a casa. E poi te la mando a te, e così lo vedi. Io sono qui. E io pure. Vabbè, mi allontano. Ti richiamo dopo. E io qui, già rimango in quelli. Ah, tu sei qui e io sono qui. Insieme a Luca lo stesso. Voi siete qui e anch'io sono qui. Da un bel po'. Sì, no, noi eravamo sull'uno, perché qua non si poteva stare, c'era sempre gente che chiamava NBX da qua, da là, da destra, e ci stava facendo mal di testa perché stavamo facendo una configurazione con Natalino in modo da permetterle di ascoltare altre cose senza spendere soldi, però è povero. Riprendi Giulio, buonasera, io ho detto mi stavo allontanando un attimo, che devo fare una cosa, ci sentiamo dopo se ci siete. Riprendi Giulio. Ok, ciao Giappa. Vabbè, sì, sono qua con Luca del Monte. Avanti Luca. Scusa un attimo, sono spostato, mi ha chiamato Marino un attimo. Ok, avanti Natalia. Rimango in due rifici un attimo che sto facendo quella cosa là. Ah, poco male Natalia c'è anche. Poco ma ne sarai tu. Ti prendo. Chi è lui? Ma quel curto, poco male lì è. Sta andando a farsi una cosa che deve fare a quest'ora. Va bene, dai, siamo qua. Se ti stai allontanando, Luca, io già sono qua, dai. Tanto rientrerà anche Coso, Gianfranco. Tanto nel frattempo io sto guardando anche la partita, per cui non è problema. Dopo va vedendo la macchina, va vedendo la partita dell'Inghilterra, Inghilterra, Germania. E adesso domani mattina mi alzo presto giù, vado a fare una passeggiata in campagna e faccio un po' di lumacchine. E a me nuda? A te ti porto un po' di ghiaia, bene va. Cuomane. E adesso telefono a Marina, così mi fai, ti faccio picchiare. Quello tu sai? Fai bene, adesso buone le lumacchine, non c'è problema. Fai bene Luca, fai bene. E a voi sono buone. Se trovo lumacchine grosse è ancora meglio. E certo che sì. E io compro molto spesso i lumacconi invece. I lumacconi li compro molto spesso. Se le fa come si dice, col pane grattato, mia moglie, no, quanto si mangia, no? Non so quanto si chiama, come si chiama, non lo so, quel sistema di cottura, io non me ne intendo, sono sicuro che me ne faccio un bel bone. E in verde? No, il verde è quello lì, aglio, prezzemolo, con l'olio, eccetera, no? Questo qui è questo col sugo, pane grattato, come si chiama, poi, credo che ci metta anche il formaggio, non lo so, il sugo rosso solo, il pane diventa praticamente tipo magna, un po' barato. Ah, avevo capito, sì, in verde lo so, avevo capito come faceva il sugo. Aggiugavite, sono buoni, a me ma quelli sono buoni, infatti li fa buoni il padre di Marina, mi fa ripieno, buona rediso. Le ultime che ho comprato le ho comprate in quel negozio di frutta e verdura che c'è lì a Sant'Orsola Sud. Ho comprato lì, c'è un negozietto lì, vicino a casa di un mio amico. Allora, detto, guarda che ci sono i lumacconi lì, sono andato, li ho comprati. Ci vogliamo 2 kg e mezzo, intanto me li mangio solo lui in casa. Io e qualcuno le mangia mia figlia, ma non più di tanto. Mia moglie no, non gli interessa, qualcuno ne assaggia così, ma niente di più. Di tutto me li mangio io. Vabbè, c'è molto le lumache grosse giù. Anche le lumache sono buonissime. Le lumache sono buone soprattutto fatte con le patate, eccetera. Sì, molto buone, molto. Preferisco di più le lumache che i lumacconi, anche se li mangio i lumacconi, però li preferisco di più. Fatti in verdi, col pane grattato, piccanti, buona riso. Infatti a molta gente non piacciono i lumacconi. Cioè le lumache, qualsiasi tipo di lumaca, cavolo, tra me, come fanno a non mangiare le lumache? Una cosa squisita. E Mario è con quei da pieno. Quello è da pieno, così me le fa mia moglie, non mi ricordavo come si chiamava, perché io di cucina non me ne intendo. Dunque, a me me le fa sempre così, cioè io voglio che me le faccia così, sì, me le fa, certe volte me le fa anche agliata, come si dice, no? Aglio prezzemolo, olio, eccetera, eccetera, ed è buono lo stesso, però io preferisco a pieno, così, con cui da pieno, ma che? No, io lo mangio tutto, la verità, sia lumacchine, sia lumache, le lumacconi, le monzette, vedi, le monzette mi piacciono un po' meno invece Eppure c'è tanta gente che preferisce la Monzette. E vabbè, ognuno di noi è diverso dall'altro. Lo so. Anche le Monzette, però quelle piccole sono buone. Sì, no, l'umacchia grossa ne faccio fuori un bel. E poi già c'è perché da gaddosa, mi vuoi la letta? Le lumache hanno un buon sapore, le lumache grosse hanno un buonissimo sapore, soprattutto con aglio e prezzemolo, gli alubri, gli aragliada. A me piacciono molto anche con le patate, con le patate, praticamente di base, da prima e da secondo, anche se di solito mi fa sempre la pasta, lo stesso. Però uno volendo si può soddisfare solo così con le lumache e patate. È un bel buono, a me piacciono lo stesso. E anche poi nel sughetto mi bagno anche il pane, pesa un fuoco.